forse Balotelli poteva pensare a una terza soluzione, che uno che diventa senatore comunque ha anche per sé un suo tornaconto di carattere personale che può, e su questo può eventualmente sorvolare sul fatto che è diventata la giustificazione del fatto che noi non siamo razzisti, però noi non siamo razzisti, ma noi non siamo razzisti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo mi sembra l'operazione, come dire, di Washington, di pulizia quasi della Lega Nord, per cui insomma è veramente uno specchio per la lodola, è messo là per difendersi poi da accuse di razzismo, di xenofobia. Quindi insomma in un certo senso questo senatore è stato anche utilizzato dalla Lega. Questo senatore utilizza la Lega probabilmente, ma viene anche utilizzato dalla Lega. Poi quanto lui sia, fra virgolette, in buonissima fede per difendere soprattutto la parte ideologica molto giocata sul migranti, insomma, prima gli italiani, eccetera, eccetera, questo insomma lo si scoprirà nel tempo. Sicuramente c'è comunque un interesse personale, per forza di cose, insomma, già il fatto stesso che insomma uno diventi senatore porta comunque anche a dei vantaggi di carattere personale. Mi viene anche da dire, poi paradossalmente, perché io mi ricordo anche la Lega dei primordi, il primo periodo in cui la Lega nacque molto sulla spinta antimeridionale, eccetera, eccetera, secessionista, antimeridionale, e paradossalmente però molti dei meridionali trapiantati al nord divennero leghisti di prima ora, per cui ci può stare anche questo effetto un po' strano, un po' particolare. In realtà, come dire, in questo caso non è il primo, perché di persone di origine straniera, poi magari che hanno avuto la cittadinanza italiana, che poi aderiscono a formazioni, diciamo, xenofobe e razziste, ce ne sono stati, penso ad esempio a Magdi Allam. Quindi insomma, questo, come dire, anche per voi che da più di 20 anni sì, fate antirazzismo, ecco, il razzismo si annida in ogni colore, verrebbe da dire. Beh certo, nel senso che da questo punto di vista non è, purtroppo anche il razzismo non ha colore, per cui ci sono razzismi, episodi di discriminazione, chiaramente non solo nel bell'Occidente, ma anche nel cuore dell'Africa, in Asia, eccetera, eccetera, eccetera, per cui ci sono vari tipi di razzismi. Noi siamo abituati a quello in Italia, più piccolini, più provinciali, siamo abituati prima a quello interno tra settentrionale e meridionale, adesso ultimamente tra quello come dire nei confronti delle persone che vengono dagli altri paesi, che prima erano magari gli albanesi, quelli dell'est Europa, poi sono diventati quelli del Maghreb e adesso sono diventati soprattutto i profughi o rifugiati che hanno il colore nero della pelle. Far capire che l'Italia entrava nel terzo millennio, che era quello della società, non nella terza repubblica, ma nel terzo millennio, che era quello della società multiculturale, interculturale, eccetera, eccetera. E Balotelli poi doveva diventare il grande esempio, sempre stato un grande esempio tradito, perché insomma anche per il suo tipo di comportamento e di atteggiamento, invece che diventare un modello, è diventato quasi un fardello per di queste cose. Chi adesso comunque alla età di 27 anni insomma rinsavisca e dica qualcosa e si introduca nel dibattito politico prendendo anche la parte, finalmente una parte giusta, entrando nella polemica, mi fa anche piacere. Insomma, di solito quando parlava di razzismo era perché se lo sentiva solo ed esclusivamente sulla sua pelle. In questo caso mi sembra un po' più un ragionamento un po' più valoriale, ecco, quello che fa.